Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9:06 minuti, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. La mail vivavoce@radio24.it. Siamo a quota circa un miliardo, per la precisione 963 milioni. Questo è il dato per la FAO. È il numero delle persone che soffrono la fame nel mondo. Sono 40 milioni in più dell'anno scorso, 115 milioni in più rispetto al biennio 2003-2005. Il 65% di queste persone vive in soli 7 paesi. E quando avvengono questi allarmi, ormai si assiste a un cliché scontato, cioè l'allarme appunto lanciato dalla FAO, che si guadagna le prime pagine dei giornali per un giorno, il giorno dopo praticamente non se ne parla più, come avviene anche oggi sui giornali italiani. Insomma, il mondo che ha fame può attendere anche stavolta. C'era tra l'altro e c'è un obiettivo che i paesi dell'ONU si sono dati nel 2000, dimezzare dal 1990 al 2015 il numero di chi soffre la fame nel mondo, il cosiddetto uno degli obiettivi del millennio. Il numero sta aumentando, nel 2015 questa farsa, possiamo dire, verrà smascherata. Si può dire che forse c'è anche un'altra farsa, quella degli stati che promettono di donare miliardi per ridurre la povertà nel mondo e poi regolarmente non lo fanno. Appena nel giugno scorso i paesi occidentali avevano promesso 11 miliardi di dollari di contributi alla FAO. Io non li ho ancora visti, ha detto un paio di giorni fa il numero uno della FAO, Jacques Diouf, e poi ne servirebbero almeno 30 di miliardi di dollari. Molti? Molti o pochi, ha detto Diouf, rispetto a quello che si spende per esempio per l'agricoltura dei paesi occidentali, per i sussidi al mercato delle armi e insomma molto poco anche rispetto a quello che si spende per la crisi finanziaria. Il mondo affamato può attendere? Ne vogliamo parlare oggi con gli ospiti che saluto, a cominciare da Jean Fabre, che ritrovo con piacere. Da 40 anni si occupa di questo tema, per 25 anni è stato al programma di sviluppo dell'ONU, la UNDP. Buongiorno Fabre, ben ritrovato. Così come saluto il nostro Alessandro Merli, inviato del Sole 24 Ore. Ciao Alessandro. Buongiorno. E voglio salutare con molto piacere, lo ringrazio perché in Italia in questi giorni e quando in Italia è inseguito moltissimo, si tratta di padre Renato Chizito Sesana, che è un padre comboniano che da 30 anni vive in Africa, prima in Zambia, ora in Kenya. Buongiorno padre Sesana. Alle 9:10 minuti, il mondo affamato può attendere ancora? Un miliardo le persone affamate secondo la FAO, un trend che crescerà nei prossimi anni, e c'è la crisi finanziaria, lo sappiamo, e questo contribuirà purtroppo alla crescita. Padre Renato Chizito Sesana, come detto, da 30 anni in Africa, visto che noi la leggiamo la fame, la constatiamo sui titoli dei giornali, lei ci può regalare un'immagine di quello che vuol dire avere la fame invece, che lei vede tutti i giorni, constata tutti i giorni e tocca con mano? Ma la fame sono i bambini, è il bambino affamato che viene da noi a cercare aiuto e lo fa solo quando è assolutamente disperato. Un bambino che spesso non ha a Nairobi i segni classici della fame ridotto a uno scheletro, ma è profondamente affamato perché ha mangiato spazzatura letteralmente per mesi o per anni, il corpo non è cresciuto bene, non si sviluppa poi bene neanche l'intelletto in questa situazione ed è disperato, c'ha una fame profondissima che ci vogliono mesi per riuscire a sanare e gli occhi e la disperazione negli occhi, questo è il volto della fame per noi quasi quotidiano. Articolo 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, di cui in questi giorni si celebrano i 60 anni. Ogni individuo ha diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione e al vestiario, e poi continua all'abitazione, alle cure mediche. Che effetto le fa a lei sentire questo articolo 25? È una cosa di un altro mondo. Io non lo vedo messo in pratica né per gli adulti né per i bambini. è un diritto che per i 3 milioni o 2 milioni e mezzo di abitanti delle baraccopoli di Nairobi è un sogno. Il mondo occidentale, spesso si dice così, sbaglia, e secondo lei sbaglia in che cosa nell'approccio dell'affrontare questo problema? Se lo affronta, se lo affronta in maniera sbagliata, se non lo affronta a sufficienza? Ma io credo che in genere si pensa subito agli affamati, è anche giusto da un certo punto di vista di dar da mangiare in quel momento, ma non si pensa a soluzioni a lungo termine. Mi è capitato molto spesso avere a che fare con organizzazioni internazionali che erano disposte a fornire, che so io, i biscotti ad alto nutrimento per i bambini, ma consideravano al di fuori del loro mandato dare le sementi perché i contadini potessero coltivare l'anno successivo, per esempio. Cioè c'è la tentazione di guardare solo alla soluzione immediata, alla soluzione che quella immediata è poi quella che costa di meno, perché si finisce per dare le eccedenze alimentari dei paesi ricchi invece di guardare veramente alle cause e cercare di risolvere alla radice questo problema. C'è un problema senz'altro di chiamiamolo da un punto di vista morale, di egoismo da parte dei paesi ricchi, perché come lei ha accennato all'inizio, ci sono i paesi ricchi promuovono il mercato libero e invece sappiamo che sul piano dell'agricoltura l'agricoltura dei paesi ricchi è pesantemente sovvenzionata, altissimamente sovvenzionata, no? Per cui ci sono le famose statistiche che una mucca europea costa di più mantenere una mucca europea ogni giorno che mantenere una persona del terzo mondo, una persona, un povero di quelli che io vedo in Kenya. Questa mucca ha molte più sovvenzioni, snaturando completamente il mercato dei prodotti alimentari. Questo è un punto molto interessante. Vorrei appunto andare da Alessandro Merli, inviato del Sole 24 Ore, che è molto esperto anche di dinamiche di mercato a livello internazionale. Ovviamente con noi rimane Padre Chizzito Sesana. Forse ti avrà fatto effetto, insomma, sentire Padre Chizzito, l'esperienza concreta di Padre Chizzito. Alessandro, è effettivamente così? Diouf ha detto che con l'8% dei sussidi che si danno all'agricoltura dei paesi occidentali si risolverebbero quei 30 miliardi di dollari che servono e che non vengono dati per affrontare questo problema della fame. Cerca di farci capire qualcosa con i numeri anche. Beh, sono tutte osservazioni molto giuste, quelle del padre, soprattutto quella che riguarda il discorso degli effetti di lungo termine di questi problemi denutrizione, di malnutrizione che riguardano le generazioni presenti, ma si ripercuotono sulle generazioni future anche in termini di mancato sviluppo intellettuale. Per quello che riguarda l'osservazione fatta dai vertici della FAO, è vero, ci sono molte promesse disattese, ma ricordiamoci che ci sono delle dinamiche politiche all'opera in questi paesi, cioè questi fatti dei forti sussidi dati all'agricoltura nei paesi avanzati, soprattutto negli Stati Uniti e in Europa, non succedono per caso, cioè ci sono delle lobby molto forti che premono in Europa, soprattutto direi in Francia, in Germania e fortissima negli Stati Uniti, nonostante sia una percentuale molto piccola della popolazione, ha un forte potere di pressione sui governi. Un po' cinicamente si potrebbe dire che naturalmente che gli agricoltori votano e i bambini denutriti del terzo mondo non votano. Non c'è dubbio che c'è un problema di promesse disattese che riguarda non solo le promesse fatte alla FAO, ma più in generale gli aiuti promessi al terzo mondo, direi fin dal vertice del G8 di Gleneagles del 2005, quando, come ricorderete, sotto la spinta di Tony Blair, che allora era il primo ministro inglese, le grandi manifestazioni promosse dalle rockstar Bono, Geldof, sì, eccetera. Il G8 fece grandi promesse di raddoppiare gli aiuti al terzo mondo, soprattutto all'Africa, si parlò allora di 50 miliardi di dollari. Se si va a guardare oggi la pagella degli otto, vediamo che nessuno ha rispettato quelle promesse. Quasi nessuno, sostanzialmente. Quando tu parli di lobby, è l'altro modo di definire quello che padre Chizzito chiama l'egoismo dei paesi ricchi? Beh, di fatto ognuno guarda al suo particolare. Indubbiamente anche nella nostra agricoltura ci sono dei casi di grossa difficoltà, però non c'è dubbio che ci sono dei gruppi di interesse che hanno la possibilità di premere sui governi molto più di quanto non lo abbia, diciamo, l'opinione pubblica, anche quella sensibile ai problemi del terzo mondo. Su tutto questo poi si è innestato, ci ricordiamo bene che fino a pochi mesi fa c'era una crisi alimentare fortissima, un certo, boom dei prezzi delle materie prime che ha aggravato questo problema della fame nel mondo. Adesso i prezzi delle materie prime agricole e anche quelli dell'energia sono calati, ma non però, necessariamente sono calati chiaro, i prezzi degli alimentari. Si sconta anche poi l'onda di quei prezzi lì, di quell'impennata, insomma, probabilmente. Adesso forse quest'onda del calo dei prezzi si potrà riversare positivamente in un immediato futuro? Credi? Beh, in un immediato futuro no, però nel frattempo si sono creati, la Banca Mondiale ha fatto un calcolo, si sono creati 44 milioni di malnutriti, che vuol dire, come diceva prima il padre, persone che non solo soffrono di malnutrizione oggi, ma che probabilmente, soprattutto nel caso dei bambini e degli adolescenti, soffriranno un ritardo di sviluppo intellettuale che durerà sì, probabilmente per generazioni a venire. Insomma, nel momento della crisi finanziaria eccetera non si vede da dove possa venire la scossa per costringere questi paesi. Sì, se dice se non è venuta prima, figurarsi adesso, insomma, a costringere i paesi a dare i finanziamenti. Vorrei andare da Jean Favre, come detto, da 40 anni si occupa di questo tema, è stato per 25 anni al programma di sviluppo dell'ONU, l'UNDP. Che cosa sbaglia Favre, secondo lei, il mondo occidentale? Padre Chizzito ha fatto capire, insomma, che c'è ancora un po' la cultura dell'assistenza del cosiddetto sacco dal cielo, no? Cioè ti diamo gli aiuti per tappare un attimo il buco della fame, però non c'è una politica di vero sviluppo nei confronti di questi paesi, è così? Ma non c'è una politica di giustizia a livello internazionale, perché il commercio internazionale di partenza è sbagliato. Poi c'è, in quello che diceva Alessandro Merli, una cosa importante, diceva che ciascuno guarda al suo particolare, e infatti guardiamo malissimo al nostro particolare, perché non abbiamo capito che facciamo un grosso errore, che non siamo in economie che sono divise in diversi paesi, ma siamo in un'economia aperta, con una ecologia aperta, in un mondo interdipendente. Quindi guardare al suo particolare con riflessi del secolo XIX non corrisponde affatto alla struttura del mondo dell'epoca che viviamo adesso. Dobbiamo considerare che c'è una sola umanità e gestire le cose in questa dimensione mondiale direttamente. Non fare la differenza tra un italiano e uno che vive in Colombia o nel Zimbabwe, perché siamo tutti nella stessa ecologia, tutti nella stessa economia, e dunque bisogna guardare ai bisogni degli uni e degli altri. Si parlava poco prima del gioco della borsa. C'è molto denaro che gira per il mondo, moltissimo denaro, denaro reale o denaro artificiale che non esiste solo sulla carta, però questo denaro non viene investito dove dovrebbe essere investito. C'è chi oggi non può pagare il cibo perché i prezzi agricoli, anche se scendono di poco di recente, sono ben al di sopra di dove erano 4 anni fa, sono aumentati a un livello tale che quello che vive in una zona rurale, in un paese in via di sviluppo, non ha i mezzi per comprare. C'è la speculazione sui prezzi delle materie prime e sui prezzi delle produzioni agricole. C'è certo le sovvenzioni agricole che fanno sì che la concorrenza dei prodotti dei paesi ricchi riesce a competere con i prezzi dei produttori dei paesi in via di sviluppo, anche se il loro reddito medio è ben al di sotto di quello dell'agricoltore del paese ricco. C'è la mancata attenzione al settore dell'agricoltura da parte dei paesi in via di sviluppo stessi e da parte della cooperazione internazionale dei paesi ricchi verso i paesi più poveri. Questa è una, ci sono tanti temi insomma sul tavolo che effettivamente pongono dei problemi seri su una questione anche di etica del commercio mondiale, questo, visto che questa parola di sti tempi viene giustamente riscoperta data la crisi. Io, padre Chizzito, vorrei tornare da lei. Senta, molti messaggi, molte mail anche ci dicono: perché non parlate della questione, è un altro tema che spesso viene fuori, del controllo demografico delle nascite. Una visione molto pragmatica, che si fa insomma la teoria malthusiana, insomma economica, è dire: siamo troppi in questo mondo, e allora perché non fare una pianificazione delle nascite? Mi interessa il suo parere, insomma, da prete Comboniano. Ma è un discorso estremamente complicato, perché bisogna vedere: siamo troppi di chi, no? Siamo troppi negli Stati Uniti, siamo troppi in Europa. Se si parla di essere troppi, probabilmente siamo troppe persone che consumano troppo. Queste sono è un dato di fatto statistico, no? Che ci vogliono, mi pare, 70 keniani per consumare quello che consuma un nordamericano, che consuma un europeo, da tutti i punti di vista, di energia, di cibo, eccetera. Quindi più che troppi siamo in uno sbilanciamento dei consumi. Esatto, perché poi se si guarda concretamente, per esempio, alla densità di popolazione dei paesi africani, che da questo punto di vista sono quelli che sono sempre portati come esempio a volte negativo, ci si accorge che i paesi africani sono, rispetto all'Europa, per esempio la media dei paesi europei, sono sottopopolati, sono largamente sottopopolati, a parte qualche eccezione, i paesi piccolissimi come Ruanda, il Burundi, eccetera. Quindi è un discorso estremamente complicato, ed è tutto da dimostrare che diminuendo o fermando la crescita demografica avvenga una distribuzione delle ricchezze e del cibo più equo. No, ma infatti, anche perché questo è un tema molto dibattuto. So che, per esempio, ne avevamo fatto anche una puntata sulle dichiarazioni del professor Sartori di recente. So che Jean Fabre, per esempio, dice assolutamente ci sono le risorse per tutti, è una questione di distribuzione, non di quanti siamo nel mondo. Che effetto le fa, padre Chizzito, sentire lei insomma viaggia, lei conosce, tra l'altro insomma è responsabile di portare Nigrizia, giornalista, insomma è una persona che di comunicazione, che sa usare la comunicazione e che comunica, però le chiedo, sentire di parlare di commercio mondiale, di sussidi all'agricoltura, di tutto questo al bambino di Nairobi che sta nelle baraccopoli, o alle famiglie di Nairobi, alle persone che hanno fame, che cosa arriva, cosa percepiscono e cosa sanno? Vorrei dire innanzitutto, no, che forse il passo da fare è quello che diceva Jean Fabre, di finalmente cominciare a pensare che facciamo parte di un'unica umanità e pensare veramente in termini globali in queste cose, non pensare alla globalizzazione come un fenomeno che tocca solo delle cose marginali o tocca solo i consumi o il modo con cui viviamo, no? Proprio pensare alla globalizzazione da un punto di vista etico, un'etica globale, cominciare a ragionare in termini globali. Io resto sempre molto amareggiato, diciamo, quando, che so, vedo che si reagisce con in termini molto diversi sulla stampa internazionale, che so io, che se muoiono 100 persone in Italia in un disastro, per esempio, se muoiono 100 keniani o 100 sudanesi in un disastro analogo. C'è veramente un cambiamento profondo di mentalità da fare in questo campo innanzitutto. E quindi dobbiamo avere uno scatto da questo punto di vista. Mi lasci dare un ascoltatore, sono diversi, insomma, ci stanno chiamando all'800 24 0024. Filippo da Genova, buongiorno. Buongiorno. Io volevo dire una cosa riguardo ai punti che sono stati affrontati. E credo che uno fondamentale, che non è stato visto in questo inizio di trasmissione, sia il fatto che comunque ci sia da insegnare anche a fare politica a questi paesi. Io sto parlando dei paesi africani. Io sono stato in 25 paesi dell'Africa, sono tornato il mese scorso da Ruanda e ho visto e capito anche dalle trasmissioni vostre che avete fatto che ad esempio il Ruanda, il presidente Kagame finanzia i ribelli del Congo, e questo genera chiaramente ha generato tutto il problema lì della zona del sì, una questione di mala politica che effettivamente c'è in molti paesi. Quindi, questo secondo lei è un aspetto centrale? Secondo me sì, sulla base dell'esperienza che ho avuto. Ad esempio, per raggiungere Mbarara, che è la terza città dell'Uganda, da Kampala, c'è la strada che arriva fino a un certo punto, poi diventa una gragnola di buche. E ad esempio, se il presidente si degnasse di asfaltarla tutta e di farla asfaltare, lì è una zona abbastanza turistica, una zona comunque abbastanza piacevole, infatti ci sono un sacco di ugandesi che vanno lì in vacanza, e lì genererebbe comunque una specie di approccio keynesiano alla sua economia. Sì, una questione di politica, di buona politica, che potrebbe questo contribuire, lei dice Filippo, ad affrontare questo problema in maniera più pragmatica. E poi la buona politica, appunto, se interviene positivamente, sicuramente ha degli obiettivi e ha delle funzionalità molto, molto positive, laddove appunto è buona. Grazie Filippo. Tra l'altro voglio salutare Piero Conforti, che è economista della FAO. Buongiorno Conforti. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Tra poco sono da lei un ascoltatore, Antonio da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo parlare a proposito. Scusi, sento un eco. Ma forse ha la radio accesa. Comunque, noi la sentiamo benissimo. Noi la sentiamo benissimo. Se ce la fa, prosegua. Vado avanti. Volevo parlare a proposito di questa correlazione che lei ha appunto appena detto tra crisi finanziaria e fame nel mondo. Noi consumiamo 8 decimi delle risorse mondiali, ma questo noi è inteso per 1/3 della popolazione mondiale, cioè così il mondo occidentale, il mondo moderno, come che si voglia. Sì, il cellulare non l'assiste, Antonio. Sì, è come quello che diceva anche padre Chizzito, insomma, il mondo occidentale, 1/3 della popolazione consuma gli 8 decimi delle risorse mondiali, è vero. E allora, prima di andare da Conforti, Alessandro Merli e Conforti. Alessandro Merli, io ho letto recentemente sul Sole 24 Ore, quando a giugno c'è stata il convegno straordinario della FAO, che insomma si sono promessi ulteriori fondi. Per esempio la Banca Mondiale ha promesso circa 1.200.000.000 di dollari all'anno, la Banca di Sviluppo Africana 1 miliardo di dollari all'anno, la Banca di Sviluppo Islamica 300 milioni di dollari all'anno, questa è in più, la Francia 300 milioni di dollari all'anno, e poi? Cioè questi soldi vengono promessi e poi che succede? Ma diciamo che alcuni di questi organismi sono più efficienti di altri. La Banca Mondiale si è effettivamente già messa in moto e ha già cominciato a sborsare una parte consistente di questi di questi aiuti promessi. Qui c'è forse da introdurre il discorso, dell'ascoltatore prima parlava di buona politica o quello che va di moda chiamare governance al giorno d'oggi, no? Che poi comprende anche tutto il discorso della corruzione nei paesi africani o comunque nei paesi in via di sviluppo. È chiaro che questo non deve essere una scusa, come non deve esserlo l'inefficienza degli enti che gestiscono o che promettono gli aiuti, però è vero che c'è un problema di inefficienza da entrambe le parti, cioè da parte sia di chi riceve gli aiuti sia da parte di chi li dà. La FAO sicuramente, poi Conforti forse ne potrà fare una difesa, ma non è certamente un esempio di efficienza, e così non lo sono molte altre organizzazioni delle Nazioni Unite. La Banca Mondiale per molto tempo ha misurato, diciamo, la bravura o l'efficacia dei suoi funzionari dal fatto dei volumi di prestiti che producevano, non poi dall'effettivo impatto che questi avevano sulla riduzione della povertà. Questo è stato ora largamente corretto. Come dicevo, l'inefficienza degli aiuti non deve essere una scusa per ridurli, però è sicuramente un campo su cui bisogna lavorare. Un rischio di freno, insomma. Su entrambi diciamo le estremità dello spettro, cioè sia dalla parte di chi li riceve e che poi o li spreca, oppure gli aneddoti e i casi sono moltissimi di dittatori o comunque gerarchi che si portano i soldi in qualche conto svizzero, sia dalla parte di chi... Faccio un esempio concreto. Ci scrive un SMS di una persona, Gabriele, credo, da Torino, che ci scrive: ho una scuola in collaborazione tra l'altro con i padri congoniani in Congo, immagino la Repubblica Democratica del Congo, vi posso garantire che si paga la farina che la FAO manda gratuitamente. Perché poi leggevo di recente anche un articolo in questo senso in Etiopia di Emilio Manfredi sull'Espresso, dicendo che poi arrivano gli aiuti e poi vengono appunto gestiti non si sa come. Quindi questo è un altro problema, un problema nel problema. Quando poi gli aiuti arrivano, laddove arrivano, se efficaci, chi li gestisce, chi li controlla? E lì entra la politica ovviamente degli stati locali, la politica in senso lato, cioè di chi controlla tutto questo. Piero Conforti, come detto, economista della FAO, Conforti non è il suo ruolo, però le devo dire per correttezza che arrivano molte critiche nei confronti della FAO, di una gestione da carrozzone, insomma di una gestione poco efficace. Non è il suo ruolo difendere la FAO, però lo faccio, insomma, ci dica una difesa della FAO e poi parliamo dell'allarme, insomma, che la FAO ha lanciato. Dunque, la FAO, come tutte le grandi istituzioni, sono certamente suscettibili di miglioramento nella loro efficienza e nel loro funzionamento. Possiamo dire una cosa, forse, ma alcuni anni fa un gruppo di paesi finanziatori dell'organizzazione ha deciso di chiedere a un panel indipendente di esperti internazionali di valutare il lavoro dell'organizzazione. Questo panel, scusate, ha lavorato per alcuni anni passando al setaccio letteralmente tutto quello che noi facciamo, come spendiamo i soldi, da dove li prendiamo, eccetera, eccetera, eccetera, cosa fa ogni singolo ufficio, e ha prodotto un voluminoso rapporto che è pubblico, è disponibile sul nostro sito web. E questo rapporto dice molte cose, dice di nuovo che l'organizzazione è migliorabile sotto il profilo dell'efficienza, ma dice due cose molto forti. La prima è che se si abolisse la FAO oggi bisognerebbe reinventarla domani, perché svolge una funzione molto utile, e che le risorse che la FAO ha a disposizione, soprattutto quelle tecniche, in rapporto alle cose che si chiede di fare all'organizzazione, non sono affatto molte, anzi sono poche. Quindi, diciamo, queste sono due conclusioni forti. Nessuno nega che ci siano miglioramenti da fare, infatti è stato avviato in relazione alla pubblicazione di questo rapporto un profondo processo di riforma che è sotto il controllo e, diciamo, gli occhi dei paesi membri che ci finanziano e che vengono qui annualmente a riunirsi e a vedere che cosa stiamo facendo, e anche di questo processo si dà conto sul nostro sito web. Quindi diciamo, questa io direi che questa è la difesa che devo fare. Adesso l'altra cosa da fare è chiarire un po', perché questo spesso non è molto direttamente evidente, soprattutto nei media, cioè, qual è il nostro ruolo. Noi siamo una sorta di grande organizzazione di raccordo fra il mondo del field, quello che chiamiamo il mondo del field, il campo, i governi, i progetti di sviluppo, quello che succede nei paesi, soprattutto nei paesi poveri, e come dire, la esperienza e conoscenza che viene generata nei circoli accademici, della ricerca, degli altri progetti di sviluppo, eccetera. Noi siamo una sorta di collettori di informazioni e conoscenza che mettiamo a disposizione dei governi dei paesi. Quindi questo è il ruolo della FAO. Tra poco di conseguenza è sbagliato quello che si dice. Beh, c'è il problema della FAO, della fame, la FAO non fa nulla. La FAO fa quello che può fare, cerca di giocare la sua parte, ma diciamo il grosso poi degli sforzi finanziari devono venire dai paesi, anche se poi Alessandro Merli in un articolo di recente del Sole 24 Ore, ne parleremo tra poco, diceva forse c'è appunto, e l'ha detto anche qui, una maggiore efficienza, cosa che lei effettivamente ha anche confermato, una maggiore efficienza della struttura di come potrebbe funzionare. Allora io vado un attimo e torno da Padre Chizzito Sesana, perché ci la liberiamo come promesso, Padre Chizzito, e poi torno anche da Jean Fabre. Padre Sesana, lei in un'intervista di recente ha detto, mi ha molto colpito, il terzo mondo è da sfruttare, sì, ma in bene. Che vuol dire? Ma guardi, io penso che dobbiamo cambiare proprio il tipo di rapporti. Si parlava poco fa di buona politica, e questo è il punto fondamentale del cambiamento che noi dobbiamo fare, certamente. Però non è pensabile di farlo con le persone che oggi sono al potere nei vari paesi di tutto il mondo. Non è pensabile perché queste persone sono funzionali all'ingiustizia che c'è in questo mondo. E che si può, fare? Commercio internazionale. Che si può fare, però? Sono quelle elette democraticamente, voglio dire. Non è che possiamo cambiare il mondo, come si dice in uno slogan. Per esempio, anche se parlava di corruzione, eccetera, tra l'altro bisogna chiarire un pochettino alcune cose. Io ricordo, purtroppo non ce l'ho con me, di aver letto uno studio di uno svedese che ha studiato gli aiuti internazionali della Svezia verso l'Uganda, e dimostrava questa persona come il 88% degli aiuti della Svezia verso l'Uganda restavano in Svezia, per esempio, attraverso tutti dei meccanismi che sono sostanzialmente, magari hanno delle forme un po' più belle, ma sono dei meccanismi di corruzione. Quindi distribuiamo le responsabilità un po' equamente. Poi dico, io non ho la soluzione a questi problemi, per carità. Cioè, dobbiamo cambiare Museveni in Uganda, certo, è un personaggio, un presidente come tanti presidenti, eccetera, corrotto, ed è un personaggio che bisognerebbe riuscire a rimuovere dal potere. Però adesso come adesso, sono sicuro ne andrebbe qualcun altro dello stesso tipo. Allora cosa facciamo? Io ho solo questa soluzione, la mia soluzione, che è una soluzione a estremamente a lungo termine. Credo nella società civile, credo che possiamo cambiare le cose solo con una crescita delle persone, credo nell'investire sulle persone, nel guardare a lungo termine, e nel far crescere la società civile. Cioè vorrei pensare che fra 20 anni ci possa essere una società civile in Kenya, in Tanzania, in Uganda, in tutti i paesi del mondo, che è veramente capace di opporsi alle ingiustizie, di selezionare gli uomini politici di votare gli uomini politici con criteri più seri di quanto non venga fatto adesso, perché non hanno semplicemente l'informazione, non hanno la conoscenza, non hanno l'istruzione necessaria a poter fare delle scelte serie. Io lavoro su questo lungo termine. Io lavoro sul fatto che la gente con cui sono, i giovani, vedo in loro un enorme potenziale, per questo parlo di sfruttare il terzo mondo, vedo in loro un enorme potenziale di crescita, un'enorme voglia di crescere, e credo che per me la soluzione è in questo impegno a lungo termine. E io la ringrazio, padre Chizzito, Renato Chizzito Sesana, di essere stato con noi. Pietro da Caserta, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo porre solamente una domanda, perché bene. Alcune volte, allora le dico subito, io ho due bambine che frequentano la scuola di Pignataro Maggiore, dove ad esempio in questo periodo stanno facendo dei lavoretti e faranno un mercatino per raccogliere dei soldi e dare ai poveri. Questo per lo più significa dare i soldi alla Caritas, per quanto ne so la Caritas poi compra degli alimenti che vengono spediti in qualche paese del terzo mondo. E, come persona che non può influire su un governo, non può incidere sulle politiche né nazionali né internazionali, mi sento semplicemente un po' oppresso a sentire queste trasmissioni, no? E mi chiedo, ma un semplice cittadino cosa può fare? Penso ad esempio a una petizione, una raccolta di petizione popolare per un certo tipo di intervento, ma non saprei quale tipo di intervento. È bella domanda, Pietro da Caserta. Gian Fabre vuole rispondere a Pietro, che da cittadino dice i miei figli fanno questo, una piccola goccia voglio dire nel mare, però fanno questo, dopodiché non possiamo certo incidere su quello che è il governo di un paese africano o europeo, almeno col voto. Che approccio è quello di Pietro da Caserta, Gianfabio? Si può benissimo incidere, infatti, perché il problema nasce anche dalla disattenzione nostra. Non chiediamo mai, quando c'è la campagna elettorale, al candidato dicendo che cosa farà per il commercio giusto, per gli aiuti adeguati. E uno che viene eletto in Parlamento sa che se fa nel bene o nel male o non fa, ha fatto qualcosa in questa dimensione, né guadagna né perde un voto. Fintanto che sarà così, continueranno le situazioni di sofferenza che vediamo oggi nel mondo. Parlare, chiedere al deputato, al senatore, a quello che viene eletto, dire che d'ora in poi c'è una discriminanza politica, che non voterò mai per chi non dà la priorità assoluta a queste cose, farà una differenza enorme, perché questo è il punto, la disattenzione nostra verso queste cose fa sì che nel palazzo nessuno non hanno l'impressione che devono muoversi su questo campo. A me è colpito molto una notizia apparsa sui giornali italiani, anche internazionali ovviamente, di recente. Il ramo agricolo della multinazionale Daewoo, cioè Corea del Sud, investirà 6 miliardi di dollari nei prossimi 25 anni per comprare un'area che corrisponde alla metà del Belgio, quindi un'area molto vasta, in Madagascar, perché si coltivi lì il grano che poi andrà in Corea del Sud. Cioè, in previsione di una crisi, la Corea del Sud, o meglio la Daewoo, è andata lì, in nome del governo della Corea del Sud, a dire cari cittadini malgasci, caro governo malgascio, coltivate in questa area il grano per noi. Che cos'è, Fabre, questa? Qualcuno ha detto una forma di colonialismo mascherato, i ricchi che vengono sfamati dall'Africa, oppure è una regola di mercato assolutamente accettabile? La regola del mercato è il nuovo colonialismo, oggi bisogna guardare le cose in faccia, se non viene l'intervento politico del potere che non deve essere solo nazionale ma anche internazionale per controllare le cose, allora il gioco facile, semplice delle forze del mercato diventa il nuovo colonialismo. È vero che hanno ragione quelli di quel paese di assicurarsi il cibo per il futuro, se non lo assicuriamo collettivamente. E questo è il rischio enorme, è che nel mondo nel quale viviamo oggi ciascuno prenda le sue misure indipendentemente dagli altri, perché non ha l'impressione che gli altri assicureranno la sicurezza collettiva. Abbiamo bisogno oggi di coordinamento, di rimpiazzare la concorrenza sfrenata che ci facciamo tra tutti noi con una solidarietà e una visione mondiale della gestione delle cose. Dobbiamo abolire il noi e il loro, dobbiamo capire che siamo una singola umanità e che dobbiamo gestire questo mondo di interdipendenza totale come tale, e se dobbiamo smetterla di guardare le cose solo all'interno delle frontiere di un paese. Dopodiché si fa questo colonialismo attraverso la regola del mercato. Piero Conforti, che lei ha detto di recente, credo, che i prezzi mondiali degli alimentari, del cibo, potrebbe tornare a crescere. Sappiamo che il prezzo delle materie prime è calato dopo l'impennata, insomma, come ci ha detto Alessandro Merli. Questo invece però è un allarme che la FAO lancia, cioè il rischio dell'aumento del prezzo del cibo nell'immediato futuro, con tutto quello che questo comporta negativamente. Dunque, quello che lei innanzitutto vuole chiarire, quello che lei mi attribuisce, è un titolo di un giornale che non è stato, per la verità, dato da me. Io dicevo una cosa leggermente diversa, che ripeto, è che in questo momento la caratteristica più importante, più evidente dei mercati internazionali dei prodotti agroalimentari è l'instabilità. Il fatto che ci troviamo in una fase in cui abbiamo osservato oscillazioni di tutte le variabili principali, quindi della produzione, dei consumi, delle scorte e dei prezzi, oscillazioni di un'ampiezza inconsueta, di un'ampiezza particolarmente forte. Questo significa che siamo in una situazione di incertezza, in una situazione in cui non sappiamo che cosa ci riserva il futuro e possiamo fare più che altro ipotesi. Allora, in questo momento i prezzi sono andati giù molto bruscamente perché è aumentata la produzione nei paesi dell'OCSE soprattutto, di cereali, molto meno nei paesi in via di sviluppo e soprattutto nei paesi in via di sviluppo più poveri, dove addirittura la produzione è un po' diminuita. Però siamo in una condizione in cui, per dire, il livello delle scorte è ancora relativamente basso. Siamo in una situazione in cui, se sono veri i pronostici che si fanno sulla contrazione del reddito pro capite su base mondiale, potrebbe aversi una riduzione anche della domanda di beni alimentari e questo potrebbe tirare giù i prezzi, ma d'altro canto, se avessimo in una condizione tale un nuovo shock dal lato della produzione, come si è verificato negli anni scorsi, dei nuovi eventi climatici eccezionali che buttano giù le quantità prodotte in alcune zone, potremmo avere di nuovo i prezzi in alto. Insomma, c'è un'estrema incertezza e questo non aiuta, insomma, a fare previsioni. No, a fare non aiuta soprattutto buone. Non aiuta quel processo che noi invece stiamo cercando di promuovere in tutti i modi, quel processo di investimento in agricoltura, nella valorizzazione delle risorse agricole che esistono nei paesi più poveri e che per molto tempo sono state abbandonate proprio perché i prezzi avevano un andamento flettente. E con prezzi molto bassi chiaramente la competitività dei paesi dell'OCSE nel produrre prodotti di base come i cereali in particolare emerge più fortemente. Allora io mi fermo qui ringraziando ovviamente tutti coloro che sono intervenuti, gli ospiti e gli ascoltatori. Potete riascoltare come di consueto la puntata sul sito se vi fa piacere, basta andare su radio24.it e poi andare nella sezione Viva Voce. Grazie ancora in redazione Alessandro Marcotulli ed Elisabetta Fusconi, Giorgio Matè in regia, e con Viva Voce ci ritroviamo puntuali domattina. Viva Voce.